ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Novembre e l'inizio di dicembre furono interamente occupati dai lavori alla nuova stalla e dalle ansie per Toro e Bella. Di un riposo invernale non se ne parlò più. Ho sempre amato gli animali in quel modo facile e superficiale con cui la gente di città si sente attratta da loro. Quando improvvisamente mi trovai a dipendere unicamente da loro, tutto cambiò. Si dice siano esistiti prigionieri che ammaestravano ratti, ragni e mosche imparando ad amarli. Credo si siano comportati in modo adeguato alla loro situazione. Le barriere tra l'uomo e l'animale cadono molto facilmente. Apparteniamo a un'unica grande famiglia e se siamo soli e infelici, accettiamo volentieri anche l'amicizia dei nostri lontani cugini. Se viene loro inflitto un dolore, soffrono come me e come me hanno bisogno di cibo, calore e un poco di tenerezza. La mia simpatia, d'altronde, ha ben poco a che vedere col discernimento. In sogno metto al mondo dei figli, e non sono solo umani. Tra loro ci sono gatti, cani, vitelli, orsi e altre curiose creature pelose. Eppure prorompono tutte dalla mia persona, e in loro non vi è nulla che possa spaventarmi o provocarmi disgusto. Acquista un aspetto sconcertante solo a scriverlo, con parole umane e una scrittura umana. Questi sogni forse dovrei disegnarli con dei ciottoli sul muschio verde, oppure tracciarli nella neve con un bastone, ma ancora non ne sono capace. Probabilmente non vivrò abbastanza a lungo da trasformarmi fino a quel punto. Un genio forse ne sarebbe capace, ma io sono solo un semplice essere umano, il quale ha perduto il suo mondo e si trova in cammino alla ricerca di un mondo nuovo. Questo cammino è doloroso e ancora lontano dall'essersi concluso. Il 6 dicembre cadde la prima neve, salutata con gioia da lince, disdegnata dalla gatta e contemplata con stupore e infantile curiosità da tigre. Evidentemente la prese per una versione amena delle palline di carta, avvicinandosi pieno di confidenza. Anche Perla aveva reagito allo stesso modo, solo con maggiore prudenza e meno slancio. Non ebbe il tempo di imparare. Allora non sapevo ancora che a Tigre sarebbe rimasto così poco tempo. Badavo al mio lavoro come sempre, trasportavo il fieno dal fienile e procuravo carne fresca. Si sarebbe detto che i caprioli avvertissero l'avvicinarsi dell'inverno, perché adesso, alle prime luci dell'alba o al calare del crepuscolo, venivano spesso a pascolare nella radura. Evitavo di sparare alla selvaggina lì vicino e mi recavo ai vecchi passi più lontani. Non volevo scacciarli dalla radura, dove per loro durante l'inverno, raspando, era più facile trovare il foraggio. Inoltre mi faceva piacere osservarli. Lynch aveva capito da tempo che i caprioli nella radura non erano selvaggina cacciabile, bensì una specie di lontanissimi coinquilini che godevano della mia e quindi anche della sua protezione, un po' come le cornacchie, le quali dalla fine di ottobre avevano ripreso a farci visita tutti i giorni. A quel tempo le mie gambe incominciarono improvvisamente a cedere, tormentandomi soprattutto a letto con forti dolori. L'eccesso di fatica si faceva sentire e in seguito ne sarebbe risultato un disturbo cronico. Il 10 dicembre trovo una singolare annotazione: il tempo passa tanto in fretta. Non ricordo di averlo scritto. Ignoro cosa fosse successo quel 10 dicembre per indurmi ad annotare sotto a Bella da Toro, neve fresca e andata a prendere il fieno, il tempo passa tanto in fretta. Passava veramente tanto in fretta il tempo a quell'epoca? Non me ne ricordo. E non ho nulla da riferire in proposito. Del resto non è esatto. Il tempo sembrava trascorrere in fretta soltanto per me. Credo che il tempo sia completamente in moto e io mi muovo al suo interno, talvolta lentamente, tal'altra con fulminea velocità. Da quando Lynch è morto lo avverto chiaramente. Siedo al tavolo e il tempo è fermo. Non lo vedo, non lo sento e non lo intendo, eppure mi circonda da tutti i lati. Il suo silenzio e la sua immobilità sono terrificanti. Salto su, mi precipito fuori casa, tentando di sfuggirgli, mi do da fare, le cose incalzano e io dimentico il tempo. E poi all'improvviso torna a circondarmi. Forse mi trovo davanti allo chalet a osservare le cornacchie ed eccolo di nuovo, incorporeo, immobile, che ci trattiene, il prato, le cornacchie e me stessa. Dovrò abituarmi alla sua presenza, alla sua indifferenza e ubiquità. Si estende all'infinito, come un'immensa ragnatela. Miliardi di minuscoli bozzoli pencolano intessuti nei suoi fili, una lucertola stesa al sole, una casa in fiamme, un soldato morente, tutto ciò che è stato e tutto ciò che è. Il tempo è grande e dispone ancora di altro spazio per nuovi bozzoli. Un'inesorabile rete grigia nella quale è intrappolato ogni secondo della mia esistenza. Forse mi appare così terrificante perché conserva tutto e non permette a nulla di finire veramente. Ma se il tempo esiste solo nella mia testa e io sono l'ultimo essere umano, avrà fine con la mia morte. Il pensiero mi mette di buon umore. Forse ho il potere di uccidere il tempo. La grande rete si strapperà per precipitare con il suo contenuto nell'oblio. Dovrebbero essermi riconoscenti, ma una volta morta nessuno saprà che ho ucciso il tempo. Questi pensieri, in fondo, sono completamente privi di significato. Le cose semplicemente accadono e io, come milioni di esseri prima di me, vi cerco un significato perché la mia vanità mi impedisce di ammettere che l'unico significato di un evento consiste nell'evento stesso. Nessun insetto che io calpesto sbadatamente vedrà in questo avvenimento, per lui triste, un nesso segreto di portata universale. Si trovava sotto il mio piede nell'attimo in cui lo calcavo in terra. Una sensazione di benessere alla luce, un breve acuto dolore e il nulla. Solo noi siamo condannati a inseguire un significato che non può esistere. Non so se riuscirò mai ad accettare questa rivelazione. È difficile abbandonare una atavica megalomania profondamente radicata. Compiango gli animali e compiango gli uomini perché vengono gettati in questa vita senza averlo mai richiesto. Gli uomini forse meritano maggiore commiserazione perché posseggono giusto quel tanto di giudizio per opporsi al naturale corso delle cose. E ciò li ha resi disperati e cattivi e poco amabili. Eppure, sarebbe stato possibile vivere diversamente, perché non esiste impulso più ragionevole dell'amore. Rende la vita più sopportabile sia all'amante che all'amato. Solo avremmo dovuto riconoscere che si trattava della nostra unica possibilità, della nostra sola speranza in una vita migliore. Per un esercito infinito di morti, l'unica possibilità dell'essere umano è perduta per sempre. Continuo a pensarci. Non riesco a capire perché dovremmo imboccare la strada sbagliata. So solo che è troppo tardi. Dopo il 10 dicembre, la neve cadde quieta e regolare per una settimana. Il tempo era proprio come lo desideravo, tranquillizzante e senza vento. Nulla mi comunica un maggiore senso di calma del silenzioso calare dei fiocchi o della pioggia estiva dopo un temporale. A volte un lembo di cielo cinereo si tingeva di un rosa intenso e il bosco sprofondava dietro il leggero e luminoso velario di neve. Sospeso da qualche parte dietro il nostro mondo innevato si intuiva il sole che però non giungeva fino a noi. Le cornacchie stavano appollaiate per ore sopra gli abeti, immobili, ad aspettare. Sullo sfondo del cielo grigio rosa i loro contorni scuri dai grossi becchi avevano qualcosa di commovente. Una vita estranea eppure tanto familiare e sangue rosso sotto il piumaggio corvino per me erano l'emblema della pazienza stoica. Una pazienza che ha poco da sperare e semplicemente attende, pronta ad accettare sia il bene che il male. Ignoravo quasi tutto delle cornacchie. Se fossi morta nella radura, mi avrebbero sbranata e fatta a pezzi, lige al loro dovere di sbarazzare il bosco dalle carogne. Com'era bello in quei giorni camminare con Lince nel bosco. I piccoli fiocchi si posavano lievemente sulla mia faccia, la neve scricchiolava sotto i miei passi, udivo appena Lince alle mie spalle. Spesso osservavo le nostre orme nella neve, i miei tacchi pesanti e le impronte delicate del cane. Uomo e cane ridotti alla loro più semplice espressione. L'aria era pura, ma non fredda. Camminare e respirare era un piacere. Se avessi avuto maggiore forza nelle gambe, avrei potuto continuare a camminare così per giorni nel bosco coperto di neve. Purtroppo non ne avevo. La sera le gambe erano tese e mi bruciavano. E spesso, per poter prendere sonno, dovevo avvolgerle in un panno umido. Nel corso dell'inverno questi disturbi diminuirono leggermente, per tornare a comparire solo durante l'estate. Mi pesa dover dipendere dalle mie stesse gambe. Per quanto possibile cercavo di non farci caso. Entro un certo limite ci si abitua benissimo al dolore. Nell'impossibilità di curarmi le gambe, mi abituai al dolore. Natale si avvicinava sempre più. E tutto lasciava prevedere uno scintillante bosco natalizio. Non mi piaceva molto. Mi sentivo ancora troppo insicura per poter pensare a quella notte senza timore. Ero sensibile ai ricordi e dovevo essere prudente. Nevicò fino al 20 dicembre. La neve adesso era alta quasi un metro, una coltre di finissimi granelli bianco-azzurri sotto un cielo grigio. Il sole rinunciò al tentativo di sfondare le nubi e la luce rimase bianca e fredda. Ancora non avevo da temere per la selvaggina. La neve non era ancora ghiacciata e gli animali potevano trovare l'erba raspando nella radura. Se ora fosse sopraggiunta una gelata, si sarebbe formata una crosta ghiacciata, trasformando la coltre bianca in una trappola pericolosa. Il pomeriggio del 20 l'aria si addolcì un poco. Le nuvole si tinsero di grigio ardesia e la neve cadde in fiocchi acquosi. Non amo l'aria calda che scioglie la neve, ma per la selvaggina era una fortuna. La notte riposai male. Udivo l'infuriare del vento che si incanalava già per la montagna facendo sbattere le scandole del tetto. Rimasi sveglia a lungo, con le gambe più indolenzite del solito. La mattina, in alcuni punti, la neve era già scomparsa. Il ruscello era in piena e anche nella gola le acque scorrevano in rivoli lungo la strada. Mi rallegrai per la selvaggina, forse a torto, perché se dopo l'aria calda avesse gelato, non sarebbe riuscita a raspare la terra indurita. Talvolta la natura mi appariva come un'unica, immensa trappola per le sue creature. Per il momento il tempo era propizio. Il prato vicino al bosco si stendeva libero al sole, che aveva improvvisamente squarciato il cielo violaceo tra le nuvole nere. L'atmosfera natalizia era svanita e in compenso mi sentivo disposta a sopportare il fön. Avevo l'affanno al cuore e gli animali erano irritabili e inquieti. Tigre fu colto da un nuovo attacco di furore amoroso. I suoi occhi color topazio si intorbidirono, il naso gli si fece caldo e asciutto e prese a rotolarsi ai miei piedi con grandi lamenti. Più tardi fuggì nel bosco. Per quanto ho potuto osservare, per un animale, l'amore non deve essere uno stato piacevole. Non possono sapere che si tratta solo di uno stato passeggero. Per loro ogni attimo è l'eternità. I sordi richiami di Bella, il lamento della vecchia gatta e la disperazione di Tigre, nessuna traccia di felicità. E dopo la spossatezza, il pelo opaco e un sonno di morte. Il povero Tigre era dunque fuggito nel bosco gridando. Sua madre se ne stava accovacciata sul pavimento con l'aria imbronciata. Aveva di nuovo respinto soffiando le sue profferte amorose. L'osservai attentamente da vicino e mi accorsi che zitta zitta sotto il pelame invernale si era arrotondata. E in più quell'umore lunatico tornava tutto. Il signor Cau Cau aveva preceduto suo figlio da un pezzo. La gatta si lasciò esaminare e palpare il ventre senza fare storie. E tutto un tratto mi ghermì la mano, mordicchiandomi delicatamente le nocche. Aveva l'aria di ridere della mia cecità. Proprio a quel tempo stavo meno in ansia per Tigre. Dopotutto, era già tornato una volta ed era adulto e robusto. Ma Tigre non tornò, né quella notte, né mai. Il 24 dicembre mandai Lince a cercarlo. Lo presi al guinzaglio e il cane seguì febbrilmente la traccia. Nel bosco c'erano naturalmente molte tracce diverse e Lince ogni tanto si fermava incerto. Per un'ora mi trascinò in qua e là. Poi, all'improvviso, in preda a un'eccitazione frenetica, quasi mi strappò il guinzaglio. E tutto a un tratto fummo accanto al ruscello, un bel pezzo a monte dello chalet. Lince sollevò lo sguardo verso di me con un fioco latrato. La traccia di Tigre finiva lì. Attraversammo il ruscello, ma Lince sembrava aver smarrito la traccia e continuava a tornare allo stesso posto, sull'altra sponda. Ispezionai la riva, ma non trovai nulla. Se Tigre, cosa del resto assolutamente inspiegabile, fosse caduto nel ruscello, sarebbe stato da tempo travolto dalle acque del disgelo. Mai saprò cosa sia accaduto a Tigre, e ciò mi tormenta ancora oggi. La sera sedetti accanto al lume a leggere uno degli almanacchi, unicamente con gli occhi. La mia mente era lì fuori, nella tenebra del bosco. Continuavo a guardare la gattaiola, ma Tigre non tornò. Il giorno seguente il vento si calmò e riprese a fioccare. Nevicò per molti giorni. Sapevo di dover semplicemente accettare quella nuova perdita e nemmeno tentai di reprimere il dolore per Tigre. Il muro di neve davanti allo chalet cresceva e ogni giorno ero costretta a spalare i sentieri fino alle stalle. Venne l'anno nuovo. Svolsi il mio lavoro aggirandomi come stranita in quel deserto di neve. Alla fine cessai di aspettare Tigre tutte le sere. Ma non lo dimenticai. Ancora oggi nel sogno la sua ombra grigia scivola furtiva sul mio cammino. Lince e Toro lo hanno raggiunto e Perla lo aveva preceduto. Tutti loro mi hanno abbandonato. Se ne sono andati controvoglia. Avrebbero tanto voluto portare a termine la loro breve vita innocente. Ma io non sono riuscita a proteggerli. La vecchia gatta è sdraiata sul tavolo davanti a me e il suo sguardo fisso mi attraversa. Allora, una settimana dopo la scomparsa di Tigre, si rintanò nell'armadio e tra gemiti agghiaccianti partorì 4 gattini morti. Glieli sottrassi e li sotterrai nel prato sotto la neve. 2 minuscoli tigrotti magnificamente striati e 2 fulvi. Erano perfetti, dalle orecchie fino alla punta della coda, eppure non erano rimasti in vita. La gatta stava talmente male che temetti di perdere anche lei. Era febbricitante, non mangiava e cacciava piccole grida di dolore. Ma di cosa soffrisse non lo so neppure ora e tantomeno riesco a immaginarlo. Per molti giorni riuscì solo a leccarmi il latte dalle dita. Aveva il pelo smorto e arruffato e gli occhi cisposi. E tutte le notti si trascinava all'aperto per tornare dopo pochi minuti strisciando tra i lamenti. A nessun costo poteva sporcare la casa o il suo giaciglio. Feci tutto il possibile per aiutarla. La costringevo a deglutire goccia a goccia dell'infuso di camomilla con una briciola di aspirina che mandò giù solo perché troppo debole per sputarla. Solo allora mi accorsi che la gatta era diventata una parte della mia nuova vita. Dopo quella grave malattia, sembra più affezionata a me di quanto non fosse prima. Una settimana più tardi cominciò a mangiare e dopo altri 4 giorni riprese la sua vita di sempre. Ma qualcosa in lei pareva essersi incrinato. Passava ore accovacciata nello stesso posto e se l'accarezzavo mi agolava piano e mi cacciava il naso nel palmo della mano. Non le restava nemmeno la forza di soffiare al lince che l'annusava curioso. Chinava solo la testa, rassegnata, e chiudeva gli occhi. Durante la malattia aveva emanato uno strano odore, penetrante, un po' amaro. Ci vollero 3 settimane prima che perdesse quel fetore malaticcio. Poi però si riprese rapidamente e il pelo le tornò lucido e folto. La gatta si era appena ripresa alla meglio che mi ammalai a mia volta. Per 2 giorni avevo trascinato il fieno su per la gola, tornando a casa trafelata e sfinita. Solo rientrando dalla stalla per cambiarmi, mi accorsi di tremare per i brividi. Il fuoco si era spento e mi toccò riaccenderlo. Bevi del tè caldo senza per questo sentirmi meglio. Battevo i denti e riuscivo a fatica a tenere la scodella tra le mani. Mi resi subito conto di essere gravemente ammalata, ma questo mi mise addosso una grandissima allegria e scoppiai a ridere. Lince si avvicinò e mi ammonì dandomi un buffetto col muso. E io continuavo a ridere, forte, lungamente, in modo morboso. Eppure dentro di me, nel profondo, era annidata una coscienza molto fredda e precisa che osservava gli avvenimenti. E io, ubbidiente, feci tutto ciò che quella coscienza vigile mi ordinava. Diedi da mangiare al lince e alla gatta, caricai di legna fresca la stufa e mi misi a letto. Prima però ingoiai delle pasticche contro la febbre e bevi un bicchiere del cognac lasciato da Ugo. Avevo la febbre alta e mi rotolavo irrequieta in qua e là. Udivo voci e vedevo facce e qualcuno mi tirava la coperta. Ogni tanto il frastuono scemava e vedevo l'oscurità e sentivo Lince muoversi davanti a mio letto. Non era andato nella nicchia della stufa, ma come un tempo avevo desiderato, si era finalmente accucciato sulla pelle di montone di Luise. Mi struggevo dalla preoccupazione per gli animali, piangendo sconsolata tra me. Verso il mattino gli attimi di lucidità si fecero più frequenti e quando l'alba del giorno nevoso rischiarò la stanza, mi alzai, infilando tremando i vestiti, e mi recai alla stalla. Ero in grado di pensare con lucidità e speravo di riuscire a mungere Bella almeno una volta al giorno. Trascinandomi su per le scale, andai a prendere il fieno per le bestie, fieno per almeno 2 giorni. Poi aggiunsi dell'acqua nel mastello. Facevo tutto molto lentamente e avevo un dolore acuto in un fianco. Dopodiché tornai in casa. Preparai della carne e del latte per Lince e per la gatta e caricai molta legna sulla brace. Lasciai la porta di casa accostata perché Lince potesse uscire all'aperto. Nel caso fossi morta, doveva essere libero. Bella e Toro avrebbero sfondato le loro porte senza fatica, i catenacci erano deboli e la corda disposta in modo da non strozzarli nel caso l'avessero strappata. Del resto non era robusta. Tutto questo, d'altra parte, sarebbe servito a poco perché davanti alla porta della stalla li attendevano solo la fame e il gelo. Ingoiai altre pasticche con altro cognac, poi sprofondai nel letto con le vertigini. Decisi comunque di alzarmi ancora una volta. Andai al tavolo e sul calendario annotai «Il 24 gennaio mi sono ammalata». Quindi trascinai una brocca di latte fino al letto e infine spensi la candela e mi lasciai cadere. La febbre mi pulsava sorda nelle vene e navigavo sopra un'ardente nuvola rossa. Lo chalet incominciò ad animarsi, ma non era più lo chalet, bensì una sala alta e buia. Vi regnava un ininterrotto andirivieni. Non sapevo nemmeno che esistessero tante persone, erano tutte sconosciute e si comportavano molto male. Le voci avevano un suono starnazzante che mi faceva ridere e subito dopo nuotavo via nella mia rossa nuvola ardente per svegliarmi al freddo. La grande sala si era trasformata in una caverna terrosa piena di animali, gigantesche ombre pelose che si muovevano a tastoni lungo le pareti o sedevano accoccolate negli angoli, fissandomi con gli occhi arrossati. Tra queste apparizioni c'erano dei momenti in cui giacevo nel mio letto, mentre Lince mi leccava la mano con un fievole guaito. L'avrei rincuorato volentieri, ma riuscivo solo a bisbigliare. Sapevo benissimo di stare male e di essere la sola a poter salvare me stessa e gli animali. Decisi di aggrapparmi a questa volontà e di non scordarla. Ingoiai rapidamente le pasticche, bevi del latte e via, lungo il mio viaggio infuocato. Ed eccoli, uomini e animali, giganteschi e assolutamente strani. Starnazzavano e mi tiravano la coperta, affondandomi le dita e le zampe nel fianco. Ero nelle loro mani, sale, lacrime e sudore sulle labbra. Faceva freddo e buio e mi faceva male la testa. Accesi la candela, erano 4. La porta era spalancata e il vento aveva soffiato la neve fino al centro della casa. Infilai la vestaglia, chiusi la porta e accesi il fuoco. Ci misi molto tempo, ma alla fine le fiamme presero ad ardere tranquille e Lince quasi mi fece cadere, abbaiando di gioia. La febbre poteva tornare ad assalirmi da un momento all'altro. Indossai degli indumenti caldi e brancolai verso la stalla. Bella mi accolse con un lamento. Mi venne il sospetto di essere rimasta in balia della febbre per 2 giorni. Munsi la povera bestia e andai a cercare del fieno e dell'acqua. Credo di averci messo un'ora, tanto mi sentivo debole. Dovevo anche provvedere a Toro e quando mi trascinai verso lo chalet già annottava. Nel frattempo là dentro si era perlomeno fatto caldo. Posai per terra della carne e del latte per l'ince e per la gatta e bevi anch'io qualche sorso di latte dal sapore disgustoso. Poi assicurai con una corda la porta alla panca, in modo che l'ince ne potesse aprire solo uno spiraglio. Non mi venne in mente niente di meglio. Già sentivo tornare la febbre, ricaricai la stufa, trangugiai le pasticche col cognac e nuovi orrori mi sommersero. Qualcosa si posò pesantemente su di me e di colpo mi afferrarono da tutte le parti, cercando di trascinarmi giù, e sapevo che questo non doveva accadere. Mi dibattevo gridando, o credevo di gridare, e all'improvviso sparirono tutti, e il letto si arrestò con uno scossone. Una figura si chinò su di me, e vidi il volto di mio marito. Lo vidi distintamente, e non ebbi più paura. Sapevo che era morto, ed ero felice di vedere ancora una volta il suo volto. Un volto umano, buono e familiare che avevo tante volte sfiorato. Allungai la mano e l'immagine si dissolse. Non era permesso toccarlo. Una nuova ondata incandescente mi sommerse, trascinandomi con sé. Quando tornai in me, il crepuscolo era alle finestre. Mi sentivo sfebbrata, debole e come scavata. L'ince stava sdraiato sulla pelle di Montone e la gatta dormiva accanto a me vicino al muro. Sebbene non mi fossi mossa, si svegliò, allungò la zampa con gli unghielli aperti a ventaglio e la posò lentamente sulla mia mano. Non so se si rendesse conto che ero ammalata, eppure, appena riemergevo dalla febbre, la gatta era sdraiata vicino a me e mi guardava. L'ince guaì dalla gioia appena gli rivolsi la parola. Non ero sola e non dovevo abbandonarli. Mi aspettavano con tanta pazienza. Bevvi il latte col cognac e presi le pasticche. E ogni qualvolta mi sentivo sfebbrata, mi alzavo per strisciare nella stalla ad accudire Bella e Toro. Ignoro quante volte lo abbia fatto, perché sprofondando nel mio agitato dormiveglia, sognavo sempre di recarmi nella stalla a mungere Bella e subito dopo mi ritrovavo a letto e sapevo benissimo di non esserci andata. Tutto si confondeva in maniera inestricabile. Eppure ogni tanto dovevo essere veramente riuscita ad alzarmi per sbrigare il mio lavoro, altrimenti le bestie non avrebbero superato così bene la mia malattia. Non ho la più pallida idea di quanto tempo abbia vegetato in quello stato crepuscolare. Il cuore mi ballava in petto con forti sussulti e l'ince insisteva a tentare di svegliarmi. Alla fine ci riuscì e mi dirizzai a sedere nel letto guardandomi attorno. Era pieno giorno, faceva freddo e sapevo di non essere più ammalata. Avevo di nuovo la testa lucida e le fitte al fianco erano cessate. Mi resi conto di dovermi alzare, ma ci misi molto, molto tempo per scendere dal letto. L'orologio e la sveglia si erano fermati e non sapevo né il giorno né l'ora. Barcollando per la debolezza accesi il fuoco. Andai alla stalla e liberai Bella che mugghiava per il peso del latte. Fui costretta a trascinare il mastello sulla neve perché non riuscivo a sollevarlo e quando andai a prendere il fieno nella cameretta per 3 volte dovetti sedermi sulle scale. Sbrigai il mio lavoro e dopo un tempo che mi parve eterno tornai in qualche modo allo chalet. L'ince sempre alle calcagna che mi leccava le mani, mi spingeva, gioia e preoccupazione negli occhi marroni. Poi diedi da mangiare a lui e alla gatta. Entrambi molto affamati, mi sforzai di bere del latte caldo e caddi sul letto. Ma l'ince non mi lasciò dormire. Con fatica indicibile dovetti spogliarmi e infilarmi sotto le coperte. Udivo il fuoco crepitare nella stufa e per il tempo d'un battito di cuore confuso tornai a essere una bambina malata in attesa che mia madre mi portasse a letto lo zabaione caldo. Subito dopo presi sonno.